I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Sebastiano Barisoni. Quanto potranno continuare le tensioni di carattere geopolitico che riguardano il Medio Oriente prima che le borse mondiali ne prendano atto e reagiscano di conseguenza? Stanno pesando più gli elementi militari o i dati economici americani? Gli Stati Uniti ieri infatti hanno confermato un'economia a stelle e strisce in netta ripresa, il PIL è cresciuto del 2,1% in linea con le attese. E in effetti la risposta sembrerebbe essere che pesa, per fortuna, più il dato positivo americano che non tutte le tensioni che arrivano dal Medio Oriente. Certo, ieri, dopo l'abbattimento del jet russo, sono andati molto male su tutte le borse europee i titoli legati al trasporto aereo, così come tutti i titoli legati al lusso. Il ragionamento che si fa è che se inizieranno a essere molto forti le flessioni di turisti diretti verso le grandi capitali europee, e non solo, a quel punto ne risentiranno in maniera significativa anche le vendite dei marchi più prestigiosi del lusso, tra cui figurano molti titoli quotati alla borsa di Milano. Ma detto questo, la maggior parte degli osservatori e degli operatori economici continuano a guardare più a quello che avviene oltreoceano. La domanda vera è quanto questo potrà reggere e se ad un certo punto le tensioni geopolitiche diventeranno vasi comunicanti con le prospettive sull'economia mondiale. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Salvatore Padula. Com'era prevedibile, gli attentati di Parigi, l'allarme terrorismo, sono destinati a trovare una collocazione nella legge di stabilità che è all'esame della Camera. L'annuncio fatto ieri da Matteo Renzi ha trovato oggi qualche dettaglio tecnico in più durante l'intervento del ministro dell'economia Piercarlo Padoan al comitato parlamentare di controllo sull'accordo di Schengen. Quindi nella manovra per il prossimo anno avremo più fondi per la sicurezza e più fondi per la cultura, 1 miliardo in più per le spese in sicurezza e 1 miliardo in più per la cultura, perché ha ripetuto ieri Padoan, garantire la sicurezza ha una doppia dimensione, una dimensione culturale e una di spesa. Ci sono molte polemiche, direi forse non del tutto ingiustificate, su alcune delle misure di cui si parla. In particolare fa discutere quella che sembra una vera e propria mancia, come la card da 500 euro che i diciottenni potranno spendere in attività culturali. Però ora va capito da dove arriveranno concretamente queste risorse aggiuntive, se il governo le troverà oppure se il loro utilizzo è subordinato al via libera della UE. Teniamo presente che già ora la manovra italiana è in deficit per 14,5 miliardi. Padoan oggi sembra lasciare intendere che si sta ragionando nell'ipotesi in cui si ottenga l'ok della Commissione europea su tutte le clausole di flessibilità che l'Italia ha chiesto. Però dobbiamo dire che questa è una possibilità che al momento non sembra ancora così scontata. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it.